Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, quindicesima e ultima giornata d'andata. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia per raccontarvi insieme come sta andando la volata verso le fanalette di Coppa Italia, perché giornata parecchio stuzzicante, perché Varese cade in casa, la capolista Varese falcidiata dagli infortuni, cade in casa contro Venezia, risultato che obbliga Milano a vincere a Brindisi per qualificarsi per quelle Final Eight di Coppa Italia che i milanesi ospiteranno proprio a inizio febbraio. Missione che direi finora sta riuscendo, perché Milano è avanti 39-22, più 17 addirittura quando mancano poco più di 4 minuti all'intervallo lungo a Brindisi, ma insomma segno intanto che la paura fa 90, perché fallire anche questo risultato aprirebbe una crisi senza fine in casa Olimpia, ma la partita è ancora lunga e sicuramente l'ex Bucchi non ci sta a far dei regali a quell'Olimpia che lo esonerò. E allora, da segnalare anche la vittoria, il ritorno alla vittoria di Pesaro dopo 11 KO consecutivi in quel di Avellino, domani posticipo di lusso tra Sassari e Montepaschi Siena, chi vince sale ad un secondo posto che è importante soprattutto in questo caso proprio per la griglia delle Final Eight. I risultati: che Bolletta Cantù, Saie 3 Bologna 79-64, Cimberio Varese, Umana Reyer Venezia 85-87, Sidiga Savellino, Scavolini Banca Marche Pesaro 71-78, Angelico Biella, Vanoli, Cremona 59-92, Sutor Montegranaro, Acea Roma 84-86 dopo un tempo supplementare, Trenk Valder, Reggio Emilia, Juve Caserta 91-72, vittoria che vale a Reggio Emilia la qualificazione proprio alle Final Eight. E come vi dicevo, Milano avanti sul campo di Brindisi attualmente 39-22 quando mancano 3 minuti all'intervallo lungo. Classifica che vede Varese ancora in testa, quota 26, Sassari, Siena e Cantù appaiate a 22 punti, Roma quinto posto con 20, sesto posto per Brindisi a quota 16 insieme a Reggio Emilia e Venezia, poi Milano 14 insieme a Caserta, Bologna 12, Cremona 10, Montegranaro e Avellino 8, Biella e Pesaro 6 punti. Allora, cominciamo subito a andare sui vari campi con Carmelo Prestisimone. Allora andiamo proprio ad Avellino per commentare questo ritorno al successo di una Pesaro che trova la prima vittoria della gestione Marcoschi e rompe così un digiuno che durava davvero da mesi. Buonasera Carmelo. Sì, buonasera Dario, ben trovati dal Pala del Mauro. Dicevi bene, perché interrompe un digiuno che durava da quasi 4 mesi. L'ultima vittoria risale alla terza giornata, successo contro Venezia, quindi bel successo dei marchigiani di Zare Markovski, che è ospite qui con me, mentre invece per Avellino è stato un autentico suicidio, perché gli Irpini hanno condotto la gara per gran parte del tempo, poi nel terzo periodo la svolta, Avellino avanti più 4, 61-57, poi Pesaro in fila, 5 bombe di fila, inizia Cavaliero, poi 2 di Stipcevic, 2 di Barbour e Avellino incomincia a crollare, a confermare il fatto di essere una squadra precaria e incapace di avere la giusta tenuta mentale. Invece Pesaro si rianima, non è più ultima perché Biella ha perso in casa contro Cremona e Zare Markovski è naturalmente soddisfatto. Sono soddisfatto del gioco della squadra, contenti per la vittoria, penso che bisogna vincere per guardare il resto, noi non abbiamo diritto di guardare la classifica perché dobbiamo continuare di lavorare bene come i giocatori lo stanno facendo e sperare di accumulare più vittorie. Ecco coach, tu che sei un ex perché hai allenato qui ad Avellino, che momento sta attraversando la squadra? Tu ovviamente la osservi, la segui da lontano, come venir fuori da questi momenti, questa situazione di disagio? Ma non invento niente se dico che soltanto con il lavoro si deve uscirne fuori, e penso che bisogna mettere in migliori condizioni la squadra di lavorarci e non pensare a niente altro che cercare di andare le domeniche, di esprimere il lavoro durante la settimana. L'innesto di Stipčević sembra assolutamente, anzi è assolutamente azzeccato, oggi ha fatto 22 punti, Barbour 22 anche lui, Kroos Ariola ha giocato una partita solida sotto canestro, 15 punti, avete vinto soprattutto grazie al tiro da 3 punti, 11 su 18, oltre il 60% da 3. Diciamo che la vittoria è stata costruita su Kroos Ariola in difesa e certamente sulla gestione di Stipčević in attacco, dove a parte lui ha trovato pure Barbour libero a esprimere il suo tiro e anche Kroos Ariola di fare molto male alla squadra avversaria. Bene, ringraziamo Zare Markovski, coach di Pesaro, e Dario, solo per segnalarti che qui ad Avellino c'è stata una contestazione forte dei tifosi, come puoi immaginare, 100 tifosi sono rimasti così sugli spalti qui del Pala del Mauro e hanno contestato duramente giocatori e l'allenatore Gianluca Tucci, che naturalmente attraversa... Immagino sempre più a rischio Carmelo, grazie intanto per il tuo collegamento. Vogliamo subito a Cantù, dove i canturini liquidano con una certa facilità, vero Roberto Nardella, una Bologna che oltre che essere già comunque matematicamente esclusa prima della palla due dalla corsa alle Final Eight, ha pagato anche gli infortuni eccellenti di Hensbrook e Minar, oggi assente, vero Roberto? Buonasera. Buonasera Dario, buonasera a tutti gli amici di Radio 24. Facile la vittoria di Cantù, però fino a un certo punto, perché praticamente dopo il 38-39 della pausa lunga, quindi il vantaggio di Bologna, la formazione ospite è arrivata fino al 42-47, poi è arrivato però il protagonista che non ti aspetti, Anderson, che è l'ultimo arrivato in casa canturina dopo aver, diciamo così, appreso un po' di campionato italiano nelle primissime sue uscite, si è presentato con due triple, 8 punti consecutivi, l'assist per chiudere il terzo quarto a Marco Svili, e la formazione padrona di casa è passata dal 42-47 di cui vi dicevo un istante fa al 61-55 del trentesimo. Il resto poi Cantù l'ha fatta nel quarto periodo, un break di 7-1 l'ha portata fino alle 77-60, che di fatto poi ha chiuso la partita nel quarto, dunque Cantù vince in fila il quinto successo consecutivo, quinta sconfitta di seguito invece per la Virtus Bologna, con i tifosi di Cantù che durante la partita protestavano per la decisione che potrebbe precludergli l'ennesima trasferta domenica a Venezia. Eh sì, sarebbe la quarta trasferta negata dall'osservatorio ai tifosi canturini. Beh, va anche detto che legittima la protesta della tifoseria canturina, ma chiaramente sono decisioni che l'osservatorio non prende distinto, insomma, quindi sono ben ponderate. Detto questo, a comportamenti consoni seguono le possibilità chiaramente anche di seguire queste trasferte. Grazie a Roberto Nardella da Cantù. Andiamo ad Ancona, dove la sempre più sorprendente Acea Roma supera dopo un supplementare 84-86 la Sutor Montegranaro. Fabrizio Fabbri. Sì, è una vittoria che non era ipotizzabile dopo i primi 20 minuti da parte della Virtus Roma, che ha trovato invece nella seconda parte di gara, nel supplementare, una cavalcata assolutamente vincente in una giornata in cui ha dovuto rinunciare oltre a Dagunduro anche a Taylor e mandare in campo Lorenzo D'Ercole con delle infiltrazioni degli antidolorifici per problemi alla schiena. Una vittoria della volontà costruita dopo aver toccato anche il meno 16 nel secondo tempo e aver avuto anche la possibilità di chiuderla prima del supplementare. Successo importante perché conferma lo spessore morale e tecnico del gruppo costruito da Nicola Alberani, che abbiamo ai nostri microfoni. Nicola, è una vittoria importante per una Virtus che ormai sembra una squadra da trasferta, sesta vittoria. Siamo una squadra veramente un brutto cliente, perché siamo magari a volte brutti, però con un'anima grandissima. Prima scherzavamo anche col presidente, insomma, questi ragazzi veramente non mollano mai e per noi è una soddisfazione gestirli, far parte di questo gruppo, perché veramente lascia senza parole. Fine del girone d'andata, un piccolo bilancio si può tracciare, non può che essere positivo: Final Eight conquistate e quinto posto solitario. Sì, questi sono due punti che già guardiamo nel girone di ritorno. Oggi è già iniziato il girone di ritorno per noi, perché questi qui sono due punti che ci servono per andare ai playoff, perché adesso l'obiettivo può essere questo. È chiaro che è dura, i ragazzi sono veramente incredibili, ogni partita è una sfida, vediamo i risultati che sono pazzi tutte le volte, quindi non si può mai mollare, però con loro insomma ci divertiamo a affrontare il gara dopo gara. Ringraziamo Nicola Alberani, e nella giornata in cui comunque Phil Goss e Bobby Jones come sempre hanno dato il loro contributo, vale però la pena sottolineare la grandissima partita di Peter Laurent, probabilmente oggi l'ungherese è l'MVP per la formazione di casa. Molto bene tra gli ospiti, still buona partita di Valerio Amoroso, ma alla fine partita decisa nel finale dalla maggior freddezza di Roma. Linea allo studio. Bene Fabrizio Fabbri, intanto Milano avanti 46-28 quando mancano poco meno di 4 secondi all'intervallo lungo a Brindisi, quindi vantaggio cospicuo, ma partita tutt'altro che finita, perché Piero Bucchi si sta indiavolando in panchina per scuotere un Erlen Brindisi che però è decisamente intorpidita a fronte di una Milano che invece rispetto alle abitudini è molto molto più determinata. Da centrocampo, Marcus Green quasi entra, niente da fare, 46-29, anzi era Airstone a fine del primo tempo a Brindisi. Ci fermiamo anche noi, ora al traffico, poi ancora tanto basket di cui parlare insieme. Palla spicchi. Ancora insieme, ripartiamo subito dai risultati della quindicesima di Lega 2: Trento-Brescia 69-81, Verona-Forlì 89-60, Imola-Capodorlando 68-65, Ferentino-Bologna 88-80, Trieste-Iesi 79-72, Pistoia-Veroli 70-64 e chiude Barcellona-Scafati 91-86. Il tabellino della vittoria a sorpresa di Venezia a Varese, una Varese che come sapete deve fare a meno del lungo dei gente Cerella, ma anche e soprattutto di Ere e di Rush e di Banks, scusate, quindi situazione davvero difficile per Frank Vitucci, soprattutto se poi ci si mette un Simon Zdzewicz con la maglia veneziana da 27 punti e 14 rimbalzi, coadiuvato da un ottimo Clark, 24 punti in 32 minuti, con un 6 su 11 da 3 che vale il 54,5%. Per quanto riguarda Varese invece non bastano i 26 punti e i 7 assist e gli altrettanti rimbalzi di Mike Green, i 15 di Andrea De Nicolao e il solito contributo di Dunston, che porta a casa sotto canestro 21 punti e 9 rimbalzi. Stefano Valenti, buonasera. Inevitabile che Varese paghi gli tanti assenti eccellenti, no? Sì, senza dubbio, era una partita poi obiettivamente con stimoli diversi, perché comunque Varese, già noto il primo posto in classifica e la qualificazione alla Final Eight, ci poteva anche stare che magari non giocasse la miglior partita dell'anno contro Venezia, che invece nell'ultimo frammento di stagione si è rimessa in corsa ed ora si merita di attendere il risultato di Brindisi, perché nel caso di sconfitta di Milano, Varese, che aveva battuto tutte le rivali con le quali era in lotta per un posto alla Final Eight, sarebbe appunto qualificata. Quindi il risultato, che sul piano motivazionale non mi sorprende più di tanto. Una Milano che è avanti di 17 punti, mi viene da ridere a dire che la paura fa 90, Stefano? Sì, devo dire che, come dire, questo è un campionato, un calendario alla mano che più volte è venuto incontro a Milano, perché se ricordiamo i momenti più complessi della stagione, l'Olimpia poi spesso ha trovato, diciamo, partite che l'hanno aiutata a rimettersi in sesto, la trasferta di Cremona, quella di Pesaro, quella di Biella. Adesso succede un po' la cosa contraria, nel senso che la vittoria di Venezia ha dato a Milano l'occasione di riscatto, ma ovviamente su un campo comunque non facile come quello di Brindisi. Ecco, diciamo che risultati alla mano, se Milano si fosse qualificata, fosse stata già qualificata al momento della palla a due per demeriti altrui, effettivamente sarebbe stato un modo molto poco onorevole di partecipare alla Final Eight in casa. Questo non succederà, Milano sarà in casa al Forum dal 7 al 10 febbraio solo se vincerà a Brindisi, lo sta facendo con merito e dunque in questo momento merita a Milano. Assolutamente sì, è anche il modo migliore per reagire alle tante difficoltà di questo primo spezzone importante di stagione. Grazie Stefano Valenti, ben trovato Carlo Genta, vi ricordo domani alle 14 siamo tutti convocati da Carlo. Ciao Dario, tutti convocati naturalmente dalle 14 per parlare di ogni sport. Allora parliamo proprio di quello che accade domani per il nostro campionato, perché c'è un Sassari-Siena che per la classifica tutto sommato vale poco, perché chi vince è secondo, chi perde è terzo, e quindi è importante soprattutto per la griglia delle Final Eight. Però è una partita che è stuzzicante sia per il livello delle due squadre, sia anche perché di solito questi scontri diretti dicono sempre qualcosa in più su quello che sarà poi il torneo, no? Rispetto al momento in cui si svolgono. Secondo me oggi, come diceva Stefano, la partita da seguire è quella di Brindisi, perché se Milano non si qualifica per le Final Eight in casa è una specie di Armageddon, no, per l'Armani Ginestra, che penso sarebbe il punto più basso dell'intera gestione Armani. Per ora sta vincendo, quindi sta portando a casa questa partita, sta portando a casa questa qualificazione, poi le Final Eight si bruciano su partite secche, quindi lì può succedere di tutto. È chiaro che in questa prima parte della stagione, lasciando stare Varese e Brindisi, che sono state le due squadre migliori della prima metà del campionato, nel rapporto certamente qualità-prezzo, sta facendo cose meravigliose Caserta, sta facendo cose splendide Avellino, pur con poi Roma, insomma, Roma assolutamente sorpresa del campionato. Però credo che la stagione inizierà dopo queste Final Eight. È chiaro che queste Final Eight sono il crinale, soprattutto per le grandi squadre come sono Milano, o presunte grandi squadre come sono Milano e Siena, Dario. Beh, allora, se Milano non dovesse qualificarsi, sarebbe la resa dei conti finale, l'Armageddon dell'Armani. Allora, stasera vediamo il risultato e domani alle 14 tutti convocati da Carlo Genta per commentare anche questa giornata di basket e poi questo posticipo di lusso tra Sassari e Siena. Grazie Carlo. Professor Flavio Tranquillo, a lei la chiusura, considerando che Milano insomma è più 17 e quindi tutto sommato, diciamo, in vista del traguardo, ma come dicevamo con Carlo, anche questo Sassari-Siena, per quanto dirà poco sulla classifica, potrebbe dire qualcosa invece sul proseguo del campionato, no? Perché questi scontri diretti qualche traccia poi la lasciano sempre, no Flavio? Beh, sicuramente hanno una valenza, è naturale che poi i playoff, soprattutto con l'avvento delle serie a 7, sono una questione completamente diversa, però uno scontro diretto ti dà la possibilità di misurarti da un punto di vista emotivo, nervoso, con la tua concorrente diretta, e Sassari-Siena è uno scontro diretto a tutti gli effetti. È una Siena che sta volando in Eurolega e che è attesa un'altra prova del 9. Abbiamo più volte analizzato questo tema, piano piano salza sempre l'asticella, perché abbiamo visto la sconfitta con Venezia, poi sì, la gara facile con Montegranaro, adesso questo scontro diretto, ulteriore banco di prova per vedere se il doppio impegno può essere affrontato e con quali risultati. Secondo me è quasi più difficile giocare una partita in cui sulla carta hai i favori del pronostico che giocare a Sassari, dove senz'altro puoi vincere ma non sei favorito, perché quello che ti può venire a mancare più che le energie fisiche sono le energie nervose, e se te la devi giocare veramente, e chiunque in questo momento per andare a Sassari e vincere se la deve giocare ma stragiocare, forse per certi versi è più facile non pensare al fatto che sei un po' stanco perché hai più stimoli. Assolutamente d'accordo. Senti, un plauso anche a Reggio Emilia, da neopromossa alle Final Eight, chapeau. Molto bene, una squadra quadrata, una squadra che ha recuperato il talento di Donnell Taylor, che non è mai stato in discussione, comunque ha giocato una grande Lega 2 vincente a casa di Monferrato, è una squadra che sa veramente dove vuole andare, che ha un ambiente che ti aiuta secondo me in una situazione del genere. Magari non è facile vincere la Lega 2, però fare un buon campionato immediatamente dietro la prima fascia di Serie A tante volte è più facile che vincere la Lega 2. Una pennellata su quello che sta accadendo in coda, Pesaro vince e dimostra che ha voglia di lottare, Cremona lo stesso perché sbanca Biella pur nel giorno in cui manca Vitali, e succederà per qualche altra settimana, 18 punti per l'esordiente Rocesti. Ecco, proprio Biella sembra avere un po' mollato gli ormeggi, 59-92 oggi. Una sconfitta nelle proporzioni preoccupante, anche perché ce n'è una con Brindisi analoga in casa, in mezzo c'è un doppio supplementare con Milano, è una partita condotta per 39 minuti abbondanti, quindi al di là dei risultati e al di là delle singole partite, mi sembra però che Biella e Avellino, che ha perso un altro scontro diretto, sono due squadre che devono veramente guardare al girone di ritorno con preoccupazione, non che non ce l'abbiano la preoccupazione, però mi sembra una preoccupazione fondata. Grazie Flavio, ci risentiamo domenica prossima, ovviamente come ogni domenica qui a Pallaspicchi. Un rapido sguardo al tabellino di Enel Brindisi e a 7 Emporio Armani Milano, che sono all'intervallo 29-46 per l'Olimpia, con 8 punti di Fozis, altrettanti di Ayrton e di Borussis, 6 di Basile e 7 di Green. Per quanto riguarda i pugliesi, 5 punti di Gibson. Vi daremo nelle edizioni serali di GR24 il risultato finale. Intanto grazie a Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Io resto qua a farvi un po' di compagnia per lo sport di Radio 24.